fuori c'è qualcosa che dimentica e noi il nostro giorno, qualche cosa che non capirò mai. Sto accorgendo che le punte dei vestiti tuoi sono un po' gialle. C'è qualcosa dentro e non è un...